dicendo che fortunatamente me l'ho sfruttato, perché se no era triste la questione. Adesso lì fuori come un coso, no, come una reliquia, e ci si affrontò il caldo, a forza di prendere il caldo eccetera, poi piano piano, già lo sai, no, cosa succede, si sfanno le crepe, si rovina. Linfa. Meno male che c'è una macchina che lo può trainare tutto, quell'amico mio, c'è una di quelle Jeep. E siamo partiti da Tramariglio un paio di volte, gliel'ho fatto vedere come, e siamo andati alle grotte di Nettuno. E quindi ha imparato a usarlo, se no doveva andare sempre con il nipote, però il gommone era il suo, non era del nipote. Sì, ma io sono tante volte lì, sono anche entrato dentro le grotte del Tramariglio, stando attento al traghetto, perché bisogna centrare i tempi, no? Perché se no poi se ne entra il traghetto e sei fottuto, non puoi più uscire. E adesso credo che sia vietato comunque entrare. E insomma, ci siamo entrati. Comunque il gommone è una di quelle cose che è molto bello quando lo usi eccetera, però poi quella gente c'ha il vizio di chiamare, no? Soprattutto anche gli amici eccetera, quando dici beh, cioè, no, sono impegnato eccetera, perché non capito, contrariamente a quanto si direbbe, poi insomma molti vogliono fare solo gomma, giusto per andarci, poi non ne farà più niente. Sì, infatti. Io avevo anche la barca, un trimarano, ragazzi. Non era veloce, ma sopportava un bel di mare. A me piaceva andare a pescare e tutto, capito? Sia dalla barca che con la canna, tutto. So fare anche i palamiti, so fare. E poi ero veloce facendo i nudi, mi attaccando gli ami ai braccioli. In un'ora l'altra volta una scatola gliele ho legata a mio fratello, perché quando non stanno pescando si fanno l'attrezzatura, no? Ma poi prima sono sì, quando andiamo ci fanno una volta, non ci, e poi non ci vengono più, quindi non vale, non fa neanche, capito? C'è gente che ha paura o questo o quell'altro. Il mio filava quando prendeva certe onde, si vedeva i colpi, nonostante c'aveva i sedili tutti imbottiti, tutto quanto, ma certi colpi usciva fuori dall'acqua, perché era abbastanza potente. Però poi alla fine oggi non ci vengono, non ci posso venire qua e là, e allora sai, a tenerlo sempre in rimessaggio lì e pronto a partire, non doveva neanche toccare il carrello, cioè non c'era proprio carrello, era in mare, aveva il suo pontile, il suo coso e niente, e vabbè. Così è bello avere il posto. E a mia moglie gli piaceva parecchio. Infatti c'ho dei filmati dove siamo lì alle grotte di Nettuno col gommone, mentre viaggiavamo pure. Io invece, noi rimanevamo, andavamo tardi, no? Perché rimanevamo lì fino al buio, avevo fatto un impianto di fari, sembrava una motovedetta, c'avevo le antenne, l'antenna per i 2 metri, l'avevo presa a Cagliari, lunghissima, no? di quelle navali, e sopra c'era la bandiera. Poi c'era, avevo fatto un montante, no? Col palo in alluminio, in alluminio nautico, perché c'era un faro potentissimo su, e ci si sveglia per l'ormeggio la notte, no? Perché anche se il pontile era illuminato, sì, la notte insomma scendeva quest'umido natalie, non te ne dico niente. Me lo posso immaginare. Bei tempi. Ma infatti, meno male, la cosa importante è che puoi dire che te li sei goduti. Mi ricordo quando ero lì, uscivano dalla baia a pescare, ero in contatto sempre con Tore, lo chiamavo Tore, sì, e lui, sì, dove sei? Sono qua, ti dicevo chiaro e forte, come senti? C'avevano, proprio per il gommone usavano gli AESU di quelli indistruttibili, no? Perché prendeva un bel di colpi, una radio normale sarebbe fatta a pezzi. E quindi avevo fissata la plancia lì. Poi quando uscivo io la notte c'era anche un altro radioamatore che conoscevo, che abitava tra l'altro vicino a me. Lui c'era la pilotina, direttamente usciva e rimaneva, penso, fino a orari anche strani, tipo oltre mezzanotte. Fermava a un punto non troppo lontano dal ponteggio di pescato, aspettava, no, che arrivavano le prede grosse. Poi anche lui probabilmente ha venduto tutto, perché adesso non so neanche se è in salute, perché mi ricordo che non stava molto bene. Anche lui era radioamatore. Io ero molto amico di un geometra che lavorava con me al comune, che era radioamatore. Antonio di nome faceva. No, questo era molto noto, si chiamava, faceva solo, operava solo una HF, si chiamava, non lo so, ripeto, se è ancora vivo, perché c'era anche una certa età. Si chiamava Vito. Ho capito, ci ho parlato con quello lì. Convinto. Antonio aveva un'imbarcazione da 10 metri, c'aveva lì ad Alghero, scendeva ogni sabato lui. E praticamente c'aveva nella CB il nome di quel monte che c'è vicino a te. Sì, ma Antonio, sì, ho capito, ah, sì, allora, sì, ci conosciamo con Antonio, ci siamo parlato tante volte, lo accompagnavo sempre quando scendeva lì, ad Alghero, che c'era la casa, anche lui abitava vicino, però a Sant'Orsola, adesso non so, dovrebbe essere in pensione lui. Lui aveva un gommone ed era ormeggiato al porto di Alghero, sulla parte, diciamo, nuova. Un cap. Cosa? Aspetto cappa. Sì, non ti avevo sentito. Anche sordo sui, no, sordo no, dai, sento anche troppo, almeno quello. Tante cose si potevano fare. Adesso con tutta quella zona è praticamente la pesca te la scordi, perché è parco, ho fatto il parco e quindi è tutto chiuso. E infatti quello lavorava con me, lavorava, quello che ti ho detto. Ah, quindi anche tu eri dove era Antonio. E allora, conosciamo bene anche da prima di entrare a lavorare lì, ci conosceva. Ma parte della sede, se non ricordo male, dove c'è il cimitero praticamente, no? O perlomeno quella specie di deposito, cos'era? Prima sì. Prima già eravamo lì, i primi tempi. Oramai. Non so se adesso Antonio ancora. Ho più sentito, mi dicevano che si trasferiva una volta in pensione, non so se voleva andare in Marocco o da quelle parti, poi sai, la gente si perde anche di vista e così via. No, manco io l'ho più visto, perché passavo con la macchina di dove lavoravamo sempre qui in questa zona e mi salutava sempre. Quindi magari è probabile che sia andato fuori, anche se non credo che fosse, sia andato fuori e è rimasto un po' fregato, con i tempi che corrono andare da quelle parti non credo che sia un buon affare adesso. Infatti, stava lì a Sant'Orso, l'aveva la casa. Sì, lo so. Ci siamo visti anche di lì dove è sotto c'è il bar, è passato tempo piano piano, arriva per tutti lo stand by, vabbè. E infatti. Era anche in tempi diversi, la gente era meno, capito? Si poteva parlare, ci si incontrava sempre in radio, poi sai, succedono tante cose Natali, quindi le cose vanno come le fanno andare a volte, comunque. L'importante è ricordare i tempi belli e soprattutto averli avuti i tempi belli, perché sennò guai. Infatti a quello gli piaceva perseguitare i saltelli, Timmy, con la radio. Sì, lo so. Più esattamente faceva il cosiddetto M, cioè utilizzava la luna per, non tanto satelliti, ma la luna proprio come piano di riflessione, rimbalzava. E allora, uiaia, dove era Antonio? Ma speriamo che sia bene, che sia in salute. Poi di fronte c'era l'altro che ci siamo visti tante volte, però la macchina, ma non so se lui sia, perché è sempre ferma sta macchina, c'è il fuoristrada, no? Non mi ricordo il nome, mannaggia la miseria, c'era l'antenna sul terrazzino, perché il condominio sopra non la faceva mettere. Era di Napoli, non mi viene il nome, ci siamo sentiti tante volte, guarda, sono andato anche a trovarlo, ho fatto delle impostazioni su una radio, non mi viene il nome, guarda. Io non me lo ricordo chi è, ne conoscevo tanti, ma tanti. Sì, guarda, era, abitava proprio di fronte, no? Tu sai dove abitava Antonio? Di fronte c'era lui, proprio nel secondo piano. C'aveva anche un figlio, credo che fosse nella protezione civile. E quindi niente, poi ovviamente anche con quello ci siamo perduti di vista, non ho più sentito, perché usciva sempre con queste radio vecchie, guarda, che era una cosa che non si gridia. È uno di quelli magari fissati con le valvole. No, quelle radio in VHF vecchie del cucco, non c'erano neanche Tony, che invece aveva sempre problemi con i ponti, con questo, con quell'altro. quello credo che come lavoro, era in pensione già, era tanto, ma come lavoro faceva, come si chiama, il maître d'albergo, no, quelli che sono in albergo. Ne ho capito, il maître. Infatti sapeva le lingue, è stato negli Stati Uniti, eccetera, insomma, già ne ha girato, ecco. Facendo quel lavoro. Adesso invece proprio è tutto morto. Guarda, è difficile anche immaginare che non ci sia, che non ci sia più la passione, proprio adesso sono tutti con questi impianti di telefonini. Che peccato, veramente erano. E diciamo che internet ha rovinato tutto, dai. Questi telefonini, queste cose, hanno rovinato tutto. Vabbè, devo dire che era destino anche quello, Natali. Purtroppo capita sempre così, quando inizi a divertirti, poi ci sono state anche le liti, già lo sai, e quindi quelle hanno dato il colpo di grazia. Infatti, a qualcuno l'hanno pigliato pure per ladro, che questo è un signore poi, tra l'altro. No, quelle cose non... Quelle cose non le so, no, di quello non sono informato, non so se sia capitato prima o dopo, quindi prima è capitato, signore, poi c'era il mio vicino che mi sblatterava in UHF. E chi era il tuo vicino? Sì, chi era? Marco. No, era mica tuo vicino, lui era coso lì a, come si chiama, visto San Francesco. E io ero più su di lui. Sì, vabbè, ma insomma, se ci aveva parlato i buoni non è che più di tanto. Poi non ci dimentichiamo un altro grande pescatore, poi ci sono andato a trovarlo a Castelsardo, cioè la prima volta a Castelsardo, tipo Calafuria, no, non so se c'è presente, e sono saliti a bordo, che era, stava lavorando, si su questa pilottina, a mare calmo, questa pilottina c'era il coso a guscio di noce, ondeggiando, cavolo, abituato al gommone, ti faceva venire il mal di mare. Capì, no, mi, sicuramente te lo ricordi. Ehi. Anche quello non c'è più. Oi. Sì, non c'è, tanta gente non c'è più. Anche il tranviere. Da buon animo. E quello era un grande amico, e infatti era lui, no, che ti dicevo, quando uscivo in mare eravamo in contatto, no? Ci facevamo la chiacchierata quando non abboccava niente, e quante cose, ci si divertiva, dai. Adesso invece è tutto più, tutto strano, no? C'è tanta gente che non c'ha più passioni, non c'ha più niente, no, sono cose un po' strane. E se non ci vanno più a pescare da quelle parti perché hanno chiuso il tutto e cosa, a un certo punto. No, ma anche passione per la radio, per le novità, per quelle cose lì, lasciamo perdere la pesca dove non si può andare, però... tante altre cose, dai, è tutto tutto così strano, dai, non è un po' lontano dal modo di fare che ci avevamo noi, che comunque vabbè, saremo troppo vecchi, dai, forse è quella la spiegazione. Può darsi che siamo troppo vecchi. Quando io la passione ce l'ho sempre, ma sono un po' limitato qua, se no quando ero su in campagna già mi divertivo. Là. Io per certi aspetti mi sono salvato perché non c'avevo la loro passione per i DX, per quelle cose, io ero più per le passioni tecnologiche, quindi mi sono sempre occupato di trasmissioni digitali, quelle cose lì, perché fare DX onestamente non mi piaceva e non mi piace tuttora, non mi è mai interessato. Sono stato un grandissimo appassionato di telecomunicazioni navali e tutte quelle cose lì, però adesso non c'è più, cioè il giocato lo si è rotto, no? Perché ci sono nuove tecnologie, nuove cose, sono tutte, spesso sono anche ai più inaccessibili. Scusa Gianfra, c'era la 50 e mi stava dicendo cosa. Sì, me lo sono immaginato. Che abbiamo fatto Natale? Anche per te ancora è presto. Le 6 e 12 sono. Oh, Natale! Sì, alle 7, verso le 7 io vado a mangiare perché devo fare quella roba lì e devo mangiare per forza. Se no dopo se mangio più tardi mi tocca aspettare per farmi quella lenta. Un'altra bella rottura anche quella, Natale, ma cosa ci vuoi fare? Sì, solo quella mi mancava. Pure. C'è anche chi sta peggio e quindi sai com'è, bisogna accontentarsi, che ti piace o no. Sì, infatti, già lo so che c'è gente che sta peggio di me. Adesso se io mi rimetto da questa cosa, questa brutta cosa che mi è capitata, tra capo e collo col diabete già ci si può convivere, diciamo così, se uno ha solo il diabete. Sì, ma anche si iniziano a sentire anche le limitazioni proprio che sono causate dall'età, capito Natale, ma così per tutti, io conosco tanta gente che è andata in pensione e me lo dice, fino a pochi anni fa faceva tante cose, sportivi, eccetera, adesso le capita la minima cosa e si trovano anche loro in difficoltà, quindi non è che diciamo rientra nella normalità, però insomma considerato che sei andato, che vai in pensione a una certa età, adesso insomma è il tempo per godersela, è anche un po' pochino, ce la diciamo tutta. Sì, infatti, solo a pensare un paio d'anni fa, due o tre anni fa, sembrava tardo, attaccando di pure a destra e a manca. Infatti, io adesso sono da tanto che non salgo sul traliccio, magari pure rugginoso, anzi sicuramente è rugginoso, però non è che te ne passi più di tanto, insomma non è voglia, dai Natali, dici ma che vada in malora, tanto per quello che c'è da ascoltare. Sì, in più con questa cosa digitale hanno rovinato tutto, cosa ascolti? No, in realtà io ce l'ho il digitale, quindi non ho questi problemi qua, non è un problema del digitale, è un problema che proprio non c'è nessuno, cioè un po' come si diceva una volta, si parla col muro. Io ho a disposizione anche, potrei anche andare sul link nazionale digitale, però anche lì sto notando che non c'è stato più ricambio, minata lì, cioè di gente giovane, non le dici dalla radio e dice il baracchino quello di una volta, no non è un baracchino, un'altra cosa, sì il baracchino torna, no capito, non so neanche che cos'è, quindi boh, se basta stavo a dare gli esami, gli esami oramai stanno andando deserti perché non ci va più nessuno, non deve fare niente a nessuno. Io tre volte sono sceso. Vabbè, non ci sono riuscito, pazienza. Perché allora magari quando sei sceso tu erano tutto più, era tutto più complicato, un pochino più. Adesso non lo so cosa chiedono, ma penso ci sia informatica, quelle cose lì, perché si lavora tutto su quello praticamente. Non c'è più il CV. Niente, sono le normative, ma ripeto, il problema è che devi aspettare molto perché proprio no, saresti a rasura praticamente facendo l'esame quasi. A me ad onore dovrebbero darmi, a me io facevo attività, hai capito? No, non è possibile quella. Ad onorem è stata concessa solo a una persona per la sua perseveranza, perché alla fine le hanno detto guardi, abbia pietà, si prenda la patente, gliela diamo, gliela regaliamo, ma non si faccia più vedere qua, neanche per chiedere informazioni. Già sai chi è, sì. Signore, abbiamo capito. Scatta, quando uno si attacca è proprio dove, guarda, via, vada via. Allucinante, veramente. Ciao Gianni, sto gelato, te l'hai mangiato o no? L'ha mangiato. E allora, buonasera a tutti. Te lo so anche io chi è. Fatti gli affari tu, già. Buonasera. Cara gamba, buonasera a tutti, là. E vabbè, a te si salta perché non te l'hanno data, perché sicuramente qualcuno ha detto di non dartela perché non ti comportavi bene, eccetera, eccetera, non c'è la brutta parola. Sì, vabbè. Già l'hanno presa altre persone al posto mio, là. Meglio così. Sì, vabbè, tanto una salita. C'è gente che ce l'ha e non sa fare quello che sa fare tu. Ah, quello è poco ma sicuro. Oh, c'è gente che non sa prendere neanche il saldatore in mano. Più di uno, sicuramente. Sì, a qualcuno gli ho fatto qualcosa io, se no schiacciava l'invio invece di aprirsi il ponte e cambiava canale. Allora, la down, i tasti di sopra. Sì, ma quella persona che ha nominato di qui è sempre meglio non fare nome. C'è ancora, sì, salute, che voi sappiate, perché non ho più visto neanche quello. No, manco io, la verità. Allora, ti racconto una storia, una volta, non ricordo se ero io o Vittorio o chi c'era, stavamo provando il digitale, no? E lui, ma cos'è questo rumore? Vi denuncio tutti! E qualcuno ha detto, perché ci denunci? Vi denuncio perché io non vi posso ascoltare. Basta andare lì, se comprati l'apparecchio. A te l'immagine che per attesa. Ma non è solo comprarsi l'apparecchio, perché anche se si comprava l'apparecchio bisognava configurarlo, se no un cavolo vi ascoltava lo stesso. Sì, già avrò avuto problemi con i toni, con i vecchi toni che neanche, non so se si usano ancora. Figura, una scena, quanto me ne raccontava attore quando viaggiavano, guarda, micidiale, proprio San Leolio. Sì, era micidiale, sì. Comunque un amicone anche quello, quando ci vedeva mi ricordo, una scena era una scena veramente quell'uomo, però sono dei bei ricordi, poi però sai, perdi tutti i contatti, non sai ancora che tutti separati, non sai che fine abbiamo fatto. fatto. So che molti ti abbiamo perduti anche a causa di questa malattia, e quindi insomma il numero va ed è cresce. Avanti Gianni. Ma te lo ricordi di come ti chiamava, come chiamava la gente? Ogni tanto metteva qualche soprannome, qualche cosa, ma più o meno ci avevamo tutti qualche soprannome. No, Gioiani. Signora Gambero! Sì, Gioiani. Micidiale veramente. Era micidiale. Poi ha fatto. Adesso rompeva anche lì, l'hanno messo a fare il controllore per disperazione. Sindacalista era. Sua valigia, ma si è incinta mia cugina, ma non è vero, mio marito l'ha preso la sera, signora Gambero, le sto dicendo che è così. E allora, quando era in galera lui, si erano abusati di lui, una scena. Io non c'ero, ma me l'immagino solo agli esami, con tutto quello che avrà combinato, guarda, era... storico, e quindi nata lì, ad onore ma c'è solo lui. E infatti non so quante volte è andata, alla fine avevano le scatole piene di vederlo lì, e ha detto non ci venga più. Allora avevo voluto questi Natali. E beh, ci avverrà ogni anno, si darà a onore. Ma adesso dovrebbero essere una cretina a fare gli esami, ma non ci vanno neanche, anche se anche chi lo può passare non ci va neanche, perché no, c'è poca roba, capito, non lo so. E poi sono fortemente dilatati, sono nel tempo, prima erano due sessioni, adesso non so neanche se li fanno ancora a Cagliari addirittura. Se non li fanno a Cagliari magari me la danno. Infatti avevo progettato di girare da Napoli a Roma a pigliarmela. Stavo progettando quello. Questa qua non l'avevo detto a nessuno, l'ultima volta che sono sceso tutti sapevano che ero lì. Quando me ne stavo tornando mi hanno telefonato. C'era un particolare ambiente anche, sai, di... comunque, vabbè. Adesso Natale cosa fai? Adesso devi fare un investimento per comprarti tutto, eccetera, poi adesso più che mai ce la faccio sempre la domanda, ma ne vado la pena. Eia, Gianfra, è per quello anche mi sono frenato. Cosa faccio? L'investimento per parlare con Muro, come diceva Falcone. Infatti il problema è essenzialmente quello. Ci sono quei due o tre anziani, ma anche in frequenze, diciamo, in HF, mentre fuori la passione permane, nei club tedeschi, eccetera, che qua è tutto strano, usiamo questo termine, è tutto un po' strano, c'è meno passione, non si riesce un po' a lasciare nessun lascito dal punto di vista della passione proprio. Comunque vuol dire che era destino che capitasse anche quello, no, tanto ne stiamo venendo tutti i colori, quindi non più nemmeno a questo punto. Infatti investimento non ne ho fatto, sono finito a parlare con Baracchino. Perché non ha lo stesso radio? Vabbè, ma mi va a burarri via, vedi? Vabbè, ognuno usa quello che c'ha, no? Si arrangia con gli strumenti che c'ha, l'importante è divertirsi. Perché anche io ho tanti apparecchi che sì, sono moderni e tutto, però sono ampiamente sottoutilizzati, eppure non è che anche di abbandono, ecco, ogni tanto nel giù, no, come fanno tutti, ho visto d'altronde. Cosa vuoi fare? Anche qua siamo sempre gli stessi, insomma, forse per noi qua sarebbe tutto morto. Sì, infatti, è proprio vero. Avanti Gianni Cheddu. Stamattina sono sceso, però il gelato non ci sono andato a pigliare, un fulmine salendo nei sassi. E come va? Ah, che era un caso, che non... qua. Mi hanno fatto stare 2 ore lì, poi. Oh, yeah. E lo spasso, no? Tutto fatto. Anche il dischetto mi hanno dato. E così ne ho 2. E beh, cosa ti hanno detto? Non ha variato nulla. Non ha variato, da come ero sono. E va bene, là. Già va bene. Per peggiorare è meglio che sia così. Sì, infatti. Ma ha detto, fra 6 mesi devo andare all'altro. Ogni 6 mesi bisogna che vada a farlo. Per tenerla sotto controllo questa cosa qui. Ma non fa bene prima allargartela quella artiglia. Che ne so, potevano farmi il lavoretto che mi hanno fatto quando mi è venuto l'infarto, se c'era da fratturare qualcosa. Vabbè, interessante che non sia andato ufficio, va. Andare, quindi domani devi riportare. No, devo portarla a quello di Porto Torres, al chirurgo vascolare. Lo devo portare. Ma ci mi ha detto Gussi cosa manda a fare dal chirurgo vascolare. Mi dice che fra 6 mesi a farne un altro. E ti farà l'impegnato, no? Sì, me la faccio fare dal mio medico. Vabbè, ma se tu c'è il dottore voleva il fare del chirurgo vascolare. E perché quella che mi ha fatto l'esame oggi non è chirurgo vascolare lo stesso? Va bene, là. Vedi tu. E infatti, adesso lo telefono e gli dico se mi risponde, se non mi risponde non vanto, tanto. Tra 6 mesi mi faccio fare l'impegnativa dal mio dottore e vado a farmi controllare tutto. E beh, tutti spariti. Già ci siamo. Cappa. Ci vuole far parlare col muro. Mi volevi far parlare. Ma concordo, non si sentì. No, negativo. Non è più, diciamo, non è più costante come prima. Sì, si è un po' stancato anche lui. Pessimismo. Rugaburivuma. Ma un bel culo. Te lo ricordi a Marcolino? Io da bambino lo conosco, boh. Allora 44 anni, boh. Adesso è grande, è diventato un uomo, io... è Alessio. Lo conosco da bambino lo stesso. Alessio su Battisti, io lo conosco da quando abitava nel Rezzino. Infatti, proprio da bambino lo conosco. Anche a Giovanna Coca-Cola. Ebbene. E quelli ci sono tutti da piccoli. Anche io ci sono da ragazzi, avevo 14 anni quando ho avuto il primo baracchino. No, io 18 anni avevo. Io 14, me l'ha venduto uno dal monte, si chiamava Diabolik, però non era Diabolik Walter, era un ragazzo. E mi ha avuto questo portatile perché c'è che non funzionava, dovevo aggiustarmelo. E siccome questo amico mio sapeva cosa aveva, ha detto portalo qua, c'hai 4 invertiti, gli hanno invertito i quarti, gli ha messo quelli di ricezione al suo posto e quelli di trasmissione al suo posto, provavamo tutti i canali, andava bene su tutti i canali. E l'abbiamo messo a posto. Ne ho capito. Io l'ho avuto, me l'ho comprato nuovo, un 23 canali era allora, me lo ricordo ancora. E chi altro l'aveva? In macchina c'avevo l'antenna, poi me l'ho messa a casa e c'avevo la mantova 1. No, io prima ho avuto il portatile, 3 watt, no, 6 canali, 3 watt. E poi piano piano mi sono comprato il baracchino per casa e poi l'ho messo anche in macchina. Io avevo 18 anni, mi sembra, quando me l'ho comprato il baracchino. Chi me l'ha fatto conoscere, lo sai chi è? No. Franco. Capito? California. E allora, lui ce l'aveva prima di me, mi ha fatto conoscere a Bruno, il cognato di Tore. Invece a me Manuel, Antonello Manuel, che sarebbe il figlio di quell'elettricista che c'era a Via Grazia Dredda, dove c'era Fainei, dove fanno le pizze, eccetera, eccetera. Sopra Via Grazia Dredda, a fianco dove c'era prima Multiedro, adesso c'è la banca. Io ho capito. Antonello Manuel, lui frequentava con Shadow 2, che adesso è morto. Shadow 2 è morto, lo sapete? No. E non stavo uscendo in questo ultimo periodo, quindi ne so molto, non so neanche che fine abbia fatto Antonio, non l'ho né più visto e né sentito, sicuramente è andato in pensione, perché passava sempre qua, passava e mi salutava con la macchina di dove lavorava. Chi è Antonio Mattarella? Monteoro. Ah, quello di Monteoro, sì, ho capito. Giovane tracomunale. Mica. Si abita a Sant'Orso, là. Già lo so dove abita, ma non l'ho né più visto e né sentito. Manco Deo. E manco io. Antonio dava caccia ai satelliti, se te lo ricordi, a una certa ora modulava qua, poi a una certa ora diceva, beh ragazzi, vi saluto, che fra poco passa il satellite. È vero. Dava sempre la caccia ai satelliti. Si apra, riprendi, oggi dove vai? Sì, siamo da molto facendo arrivare. Anche stavamo parlando anche prima, io sapevo che era andato in pensione, sembra che si volesse trasferire fuori all'estero per il fatto che le pensioni lì erano più favorevoli, dai, vedi che con l'euro in certe zone ti compri casa senza fare quei problemi. Credo che mi abbia parlato al Marocco, non so, in quelle zone lì. Solo che anche se è andato lì è un periodo disgraziato per andarci tutto lì, poi neanche l'ho più visto. So che ci sono anche ancora le antenne, l'ultima volta che ci siamo sentiti, dopo che c'era ancora una storta, che una tempesta l'aveva mezzo capottata, poi abbiamo perduto tutte le tracce, un po' di ognuno, dai. Non ho capito di chi stai parlando, già fa. Di Antonio. Ah, quello di Monteoro, no, perché anche Salvatore Maestrale si era trasferito all'estero. Ma non so se lui era radioamatore, capito? No, lui era CB, ma CB ben fornito di apparecchiature e tutto. E sai cosa te ne fa delle apparecchiature se poi non le puoi usare? È tutto lì. Tutto lì. E i tempi trascorsi ormai, ripeto, la passione di molti è andata terra a terra. C'era anche il padre di Romeo, che era radioattore. Te lo ricordi, quello di Piazza Colonna? Sì, poi c'è il figlio, ma stiro di più, che non so se avete conosciuto Gianni che c'era la stazione lì in via Piave. Il nominativo l'ha preso il figlio, e infatti ci ho parlato, non ricordo quando, forse l'anno scorso, e per un attimo mi sono accesa, dico, ma Gianni non c'è più, e invece è riuscito a farsi dare il nominativo del padre. Però non lo so, forse opera solo in HF, eccetera, perché molti in VHF neanche ci operano. Perlomeno il padre era raro che si sentisse in VHF. è così. Sì, sì, riconosco, conosco anche il figlio, che figlio fa servizio ambulanza, quindi lo conosco, Gianni Vincis. Ma non si dovrebbero fare nomi in radio, no? O meglio cognomi, anche se poi sono noti, non è una cosa che si dovrebbe fare. Gianni, scusa se ti faccio questo piccolo appunto. Sì, vabbè, non è che ho detto niente di che. Vabbè, ma stavo parlando di persone che tu non lo sai se gradiscono o meno di essere nominate per cognome, per nome e cognome, ecco, è tutto lì il punto. Te lo dico perché a noi ad esempio quando trattiamo i dati siamo molto riservati e quindi non possiamo dire Tizio, Caio, Sempronio, se no insomma non è molto corretto, dai. Chiedo bene. No, per carità, già figurati, non è che è solo così, una postilla, dai, mettila così. Mentre invece la stazione di Capino c'è sempre. No, non penso. Ci sarà magari l'antenna, ma boh. E infatti per un bel po' d'anni c'è stata l'antenna lì, che nessuno ha tolto. Chi c'era? Vabbè, c'era anche il mio vicino, ma preferisco per un motivo non nominarlo nemmeno. Io ho capito. Quando stavi da un'altra parte c'avevi un vicino che già ho capito chi è. Sì. E adesso sarà bello vecchio anche lui. Perché Gianni, almeno Gianni così era tocco. Gianni ci sono capiti, no, con l'anziano. Lui invece era tutto da conto suo, io proprio, c'era gli amici ma non ce li aveva, o meglio li aveva e li abbandonava, appariva e spariva, per carità, guarda. Sì, c'è gente che si è preso la patente e non parla né di là e né di qua. Figurati. Sì, ma soprattutto non è di parlare o non parlare, è il comportamento che ti lascia di stucco. Ti fa proprio capire che c'era lì solo per convenienza e basta. Non era tanto. Io proprio ero di casa, era. Conoscevo figli, conoscevo la moglie, tutti quanti, povera donna. Se tu dici, vabbè, cambiamo discorso. Chi è meglio? Esatto, anche perché non so neanche se sta gatta ancora. Sì, infatti, neanche io. Non ho più vista né sentita nessuno, neanche io. Devo sentire lì, prima entrava, adesso neanche lui entra più, a Fabrizio Mascherato, no, che lui abitava di fronte a me e quindi ogni tanto mi notiziava riguardo al fatto se c'era o non c'era, ma adesso è tanto tempo che non sento neanche Fabrizio. Sì, infatti anche io non l'ho più sentito, ogni tanto entrava qua a parlare, ma non si è più sentito neanche lui. Ci stanno abbandonando tutti, ci stanno abbandonando tutti. Gianni, aiuto, dici qualcosa, che qua, come si dice, la cassa piange, dai. Ma è sparito. Gianni, sparito doppio rum. Così, diciamo lì. Manco Giulio si è degnato di onorarci della sua presenza. No, oggi siamo proprio dei naufraghi quasi. Giulio, non è entrato nessuno, solo Gianni. Ed è pure sparito. E magari si è spostato. Gianni! addormentato ti sei? Qua sogno qua. Ah, già ci sei già. Mi sono andato a cambiare l'acqua di oliva. Vedi. Kappa. Vabbè, di prima stavamo parlando della frequenza di prima. Prima c'era un bel di gente, ma c'era anche gentaglia. Ma quella, guarda, dovunque vai, anche se vai sulla luna la trovi, non ti preoccupare. Quindi fa parte del pacchetto, no? Ma c'è gente che dice prima si va, prima cosa, prima era tutta la greba, tutta la gentaglia di cose, parolacce, quello che faceva le pernacchie, l'altro che metteva la portante, l'altro che faceva il gioco della calzetta. Sì, anche lì ne abbiamo visto di tutti i colori. Di tutti i colori, ma la colpa è anche di chi la dava corda. La stessa cosa veramente vergognosa, considerando che comunque si parlava di una persona non proprio, come si può dire, sana di testa, diciamola così, dai. E appunto, ma non le faceva appena per quello, perché lo prendeva tutti in giro e non era in sé. Un giorno mi trattava male, ha detto tutti i colori, ha detto dovete rispettarla mio figlio che è malato. Fatta virare qualche giorno, vi fate venire l'infarto. E una volta io ho bisticciato con Piero proprio perché a quello per poco gli veniva un infarto a Falcone di quanto lo faceva incavolare. Ma guarda, io ti posso dire una cosa, che se l'avessero fatta adesso con le leggi che ci sono, parecchia gente sarebbe finita in galera, senza proprio, con tanto anche di risarcimento nei confronti della famiglia, perché erano delle azioni veramente ignobili, e poi fatte da persone grandi, una vergogna, neanche per chi ascoltava, guarda, una vergogna, io mi vergognavo di ascoltare addirittura, perché è una cosa indegna. Sì, lo so Gianfra, purtroppo c'erano queste persone, erano persone grandi, eppure lo faceva una beffa poverino. E poco lo facevano incazzare, non ci fanno gli occhi di fuori, poveraccio. Una volta a me, io non lo sapevo che era così, mi ha detto, ascolta quello che parecchio c'hai, ho detto, portatile 80 canali, e mi ha detto, se mi dai quello te ne do un altro 120 canali, sono andato a casa sua, il padre era malato, era a letto, mi ha detto, guarda, non gli manca nulla a lui, perché grazie a Dio noi ci abbiamo un impero, però non posso metterlo manco al telefono perché si mette a fare il gioco della cazza anche qui. E dice, tu devi capire che se gli dà un portatile, quello si distrae parlando, attraversa la strada, lo mettono sotto qualche macchina, se no di portatile ne avrei potuto comprare, non uno, no, centinaia. Sì, infatti, i soldi già ce li aveva quella persona, però purtroppo lui era malato, e cosa vuoi fare? A volte neanche quelli bastano per darti la felicità. E lì ci hanno messo in mezzo tutta la famiglia, poi proprio delle cose che solo chi le ha sentite e ascoltate può capire, perché non erano cose veramente da fare, erano, che poi erano padri di famiglia tutti. La cosa impressionante è quella, sono stati i ragazzini, sai, i ragazzini come sono, tutti padri di famiglia, bobo. A Cali, ma la torta tu gliel'avevi fatta, quella forma di uccello. Sì, perché mi aveva fatto incavolare una volta. Stavo parlando con Adriano e lui mi è entrato secco secco. Adriano, non ci parlare con quello che è fruscio. Cioè a me, e io lo difendevo, ma dimmi tu. E beh, questo ti dà la misura di quanto era messo male, poverino. Quindi purtroppo è così purtroppo. Oi. Comunque, a prescindere anche da Falcone eccetera, io ho sentito altre volte che si sono scannati per altri motivi, a minaccia, forse c'è partita anche la rissa qualche volta per questione di femmine, perché chissà che femmine erano queste, proprio per l'amor del cielo, guarda, tutto quello che si sentiva. Sì, infatti. Gente di bassa macelleria era. Cosa vuoi fare? C'era quella persona lì. Come si chiamava? Abitava di fronte a Carabinieri, credo. Che si è litigato non so con chi, ma per questa che credo fosse una di Usilo, questo me lo ricordo che era di Usilo, ma un affarratorio che io non so se all'epoca voi l'avete ascoltato, ma era una cosa veramente da impallidire, con minacce, con tutto. E forse ho capito chi è. No, io no. Ah, sì, che abitava lì, ho capito chi è anch'io. Cos'era, un uccello? Non me lo ricordo quello nominativo, perché non me lo ricordo. No, un numero più che altro. Sì, vabbè, non scegliamo particolari. Comunque ho capito, adesso che ci ho pensato ho capito. No, ma quando mai non c'avevamo lì la moglie e quelli che l'ascoltavano, sai, quando si parla con questo di voce, sì, c'è sempre qualcuno che ti ascolta, anche la famiglia. Veramente micidiali, scusa. Niente. Tutto lì. Vabbè. Tempi passati. Sì, sotto certi aspetti meno male. No. Adesso cambia parecchio. Natalia, è quasi ora di cenare. Adesso mi devo misurare la glicemia e poi farmi l'insulina. E adesso è ora. Vabbè, là, vi lascio che dopo devo mangiare, se no è un macello. Purtroppo è venuta l'ora di Pavesini. Grazie per la chiacchierata, Gianfra. Salutami a Gianni quando rientra, io purtroppo devo chiudere. Alle prossime, dai. Vecchietti, stanno da mangiare, io che presto, mangiate alle 8. No, ma lo sai cos'è, già? Se aspetto alle 8, poi per farmi quella lenta devo aspettare fino alle 10 a misurarmi la glicemia e tutto. Perché io me la faccio quando capita, non aspetto niente. Io faccio vabbè, le prime prendo le pastiglie a cena, poi mi faccio quella lenta. E io invece la pastiglia mi ha fatto male e ho ripreso a fare l'insulina, gliel'ho detto alla dottoressa quando ho fatto l'ultima visita, 4 insuline al giorno. Questo è Ruiz, Natali, come va? Bene. È bello Ruiz, da vedere mi piace. Io purtroppo qua non c'ho neanche posto per mettermi una stazione base, nulla. E cosa vuoi fare? Devo usare questo baracchino e buco. E gli esce bene lo stesso, già di una futti. Tu senti che ti sentano, non c'è problema per quello. Ciao Frank. Anch'io, che sono lo stesso vecchietto, adesso me ne devo andare a cenare, perché se ceno tardi poi non dormo. Mi dà parecchio fastidio la notte, poi se non dormo guai, perché mi sveglio presto. E è stata una settimana un po' rognosa perché ho dormito male e quindi la mattina poi mi prendo il sonno e devo lavorare. E cose anche quelle che capitano. E l'età è già, l'età, siamo vecchietti. Che ti c'hanno il bastone. E anche a me stava succedendo già fa di non dormire, lo sai, mi alzavo più volte la notte con quest'ansia, questa non capisco non perché, non c'avevo né problemi né nulla, però non riuscivo a, forse il caldo anche, il caldo soprattutto questo che c'è, io figurati sono anche con la finestra chiusa perché sono manenza l'aria calda, però a volte insomma è tosta perché poi la notte devi stare attento quando esci, perché c'è cioè è sempre umido, quindi si prende anche male qualche coccolone. Oh, se dalle 9 c'è caldo, perché io porto il cane a quell'ora e c'è ancora caldo, ma non si può stare.